quella di 5 secco. No, va bene, va bene. Se sei a Itiri va bene, 5-9 quella di 5. Parcheggiato in via Verona. E poco ci passo da quelle parti. Poco ci passo lì. Che fa? Tutto a posto, sì, sentito toppare l'altra volta. Oh, visto, ma non è che lo fai contento. Mamma mia, già lo voglio vedere. Ui. Ciao Pietrangeli, a me saluta mio babbo, ciao e tanti auguri. Sono fermato, non sono a parte, giusto così per far camminare un po' senti perché lui ha portato Torres o Fabric, capito? Ha portato Torres e tu sei con quell'antenna, quindi non lo senti. Avanti, genio! No, non ti sente, me l'ha confermato, non ti sente. Sì, sì, sì, è un modello come quello che abbiamo noi. Più o meno, dovrebbe essere quello. Che va bene. E lì adesso bisogna montare una bella antenna, un bel baracco. E sei a posto, mio, oggi hai capito. Ehi, ehi. Vabbè, il 2001 già è buono. Ma poi ha ragione, perché poi secondo dove passi la specie, capito? Perché se la metti sopra il tetto è già alta, quindi metti un'antenna mediocre, sono simile a quella che hai, che abbia un po' più di potenza, ma poi l'antenna è molto alta, cioè, se no la spetti, la pieghi la punta, è un casino, poi si fa brutta, mentre ti sei dei camionisti con tutta la punta abbigiata, capito? Va bene, avanti Fabrizio. Un controsenso, come si fa? Cioè se io fossi uno di loro, cioè non avrei fatto nessun servizio nel litorale, capito? Mi sarei messo a coro con tutti, non diamo nessun servizio. Perché è assurdo, come si fa? Come si fa? Allora al sesto perché non lo fanno smontare? Al secondo perché non lo fanno smontare? Non ho capito, non sono uguali agli altri. Cioè ci sono figli e figliati. Come sempre in tutte le cose. Come sempre in tutte le cose, non le accetto io queste soluzioni da parte dei comuni, perché o tutti o nessuno, e non sono strutture che puoi montare così e togliere, c'è tutto il basamento, c'è tutta la struttura, tutti gli ancoraggi per il vento, cioè sono strutture abbastanza solide, che ci vuole il suo tempo per montarle e smontarle, ma è possibile ogni volta a fine stagione, tanto devo smontare tutto, poi riandare nuovamente 2-3 mesi prima, e rimettere tutto a posto, impianto di luce, poi lasciano stabili e danno la concessione a tutti stabile per tutto l'anno, oppure non la dai a nessuno, basta, perché il sesto la struttura è stabile, il secondo è stabile, non ho capito perché le altre strutture non devono essere stabili, perché le fai smontare e montare. E gliel'ho vista, sì, l'ho vista. Avanti, genio. Scusa, oggi che sono andato a aprire, cosa hai detto? E oggi, ma la base è come? Attacco PL o a coso? A, come si chiama? Quello a farfalla. No, oggi. Gaiola Righi non ha giù di segosi. Non ne uso base magnetiche, ho capito. Ne ho una e boh. Però non è neanche quella 27. No, stavo guardando oggi, però quella che ho io non è così, capito? Non è così, e io ho capito, è diversa quella che c'ho io, e poi non è per la 27, capito? La base è per le V, è diversa, Eugenio. Non so se le vendono quelle... Sì, le vendono, dovete avvicinarti alla GBC, le vendono quelle, la basettina, dai, col cavo già attaccato. Sì, le vendono quelle basettine, penso che ce le abbia anche Fusaro. Questa ce li abbia anche Fusaro, capito? Le vendono oggi. Le vendono da mettere sulle basi magnetiche oppure da mettere direttamente sulla macchina. Sì, le vendono. Però se fai il buco che metti la PL800 o la 2001, cosa metti? Quell'attacco non va bene. Non lo so se uno è da 6 e l'altro è da 8. Non me lo ricordo. Uno è da 4 e l'altro è da 6. Non me lo ricordo. No, non me lo ricordo. Era tanto che non mi piace con le antenne in macchina. Capito? Avanti Fabri. Bella? No, lui vuole quegli attacchi a farfalla, capito? Non mi ricordo se è da 4 o da 6 in foro. E lui dice che è uguale alla 2001, quindi dovrebbe essere a 6. Aspetta guardando nel catalogo Fabrizio e OG. Perché le vendono anche Fabri quelle basette, no? A parte l'antenna, se vuoi solo la basetta vendono anche la basetta. L'antenna di quella è corte della. Cos'è? Che antenna è? Oggi è quella che devi attaccare. È una di quelle antenne della Midland, è a farfalla. L'attacco a farfalla. Ehi, quella piccola con l'attacco a farfalla, ci sono anche gli attacchi, anche che la base magnetica, cioè vendono anche l'attacco per attaccare direttamente sulla capota della macchina. Sì, sì, no, quello per la carrozzeria. Quindi della Lemme ce l'ha allora Fusaro, la Lemme ce l'ha Fusaro. Sì, ce l'ha Fusaro, se poi conti 12,64 euro più il trasporto, quanto costa? Allora, vai da Fusaro, 12-13 euro ce l'hai qua subito, se ce l'ha, bisogna vedere se ce l'ha. E dovete vedere uno o l'altro, comunque la LEM ce l'ha Fusaro, la GBC c'ha la CTE, ci sono anche quelli della CTE. E vabbè, comunque, gli attacchi sono quelli, capito, li fa la CTE, la LEM, la Sigma, gli attacchi per le macchine. Quindi la LEM ce l'ha Fusaro, se ce li ha gli attacchi direttamente lo puoi comprare da lui. Guarda a vedere se costa così, più ci saranno minimo 5-10 euro di trasporto. Quanto costa? Oggi c'è il prezzo, o Fabri c'è il prezzo di quell'attacco? Non c'è, no, sicuramente già costa, se c'è su eBay a 12 euro più il trasporto, minimo da Fusaro, quindi Dio. Marco, Congo, ci sei, Marco, sono le 6, sei dormito alle 6, e non stava bene ieri, dice che era mezzo influenzato, poi si è messo qualche supposta, capito? Allora, mi ha fatto male, quindi è seduto in bagno. Ma io sono da tanto che non ci scendo, ma hanno bonificato l'aria, cioè dove ha preso fuoco, hanno bonificato tutto, oppure ancora così? Non capito, capito. Perché so che dovevano bonificare, fare, non ti compreso poi. Che intenzioni abbiano lì? Ascolta, andando lì dove hai girato tu, quello di Sandrino c'è ancora, sì. È un bel business, cioè, guarda, lascia perdere. Io non so cosa succederà quest'anno anche nella mia zona lavorativa, perché anche lì c'è un villaggio proprio di fronte all'acqua fantasy, che è pieno di negri. Io non c'ho niente con nessuno, però non capisco come facciano a interfacciarsi con le persone che sono lì in ferie, eccetera, eccetera, che pagano fior di quattrini con le case, eh? Si paga un bel di soldi lì alla marinetta, quindi non riesco a capire quale sia la convivenza o se succederà qualche bordello forte. E pretendono soprattutto, e pretendono, capito? Ma sai che mi sta chiamando mia figlia? Tanto non mi sentite con Eugenio, se non entra nessuno, no, che aspettate un attimo, arrivo subito, un secondo solo. Arrivo, un minuto, sto dicendo questa mia figlia. Eccomi, vamos. Ehi, è arrivata adesso. Poco fa arrivato. Non ti sei presentato, però. Aspetta, Ilaria, in casa eri? In casa eri là? Ah, non eri in casa. No, non era in casa, Luci, era dentro. No, ma che tra me era già lì, dove c'è scritto tra i break. Tutti uguali sono, lì no, sono tutti uguali. Quella che c'era viola non lo so chi è, viola, verde, e una delle socie è quella lì, ma comunque lavora anche lì, evidentemente no, perché ce li hanno verdi, blu, nere. Se tu non ti presenti, ma cavolo a dire, c'è Ilaria? Dice, sì che c'è. Ciao, io sono Eugenio. Capito? Io sono Eugenio B2, sì, B2, capito? No, e a volte non sta fuori, a volte dentro, capito? Ma c'è un'altra cosa da fare, organizzare, fare, e domani venerdì. Quindi, ma stanno preparando qualcosa, qui mi pare che un compleanno, un battesimo, un tassino, non so. Qui sì, c'è l'intrattenimento per i bambini. E il martedì e il giovedì mi pare, ma è oggi. E poi sabato, domenica, tutto intrattenimento per i bambini. C'è il parco giochi dentro, mai visto. È grande anche dentro. Ma non si può mangiare, ma sono i bambini, Sant'Antonio mio, mi aggasino. Vabbè, tu mi dai, i bambini sono bambini, però se io domani a meraviglia voglio rilassarmi, non li voglio brutto. Va bene, domani mattina vado da Daniele, così pronto. E via, adesso aspetto stasera, se Elio mi dà risposta, perché non lo sapeva. Vediamo un po'. Io lo sento quello che gli ho detto. Ciao Natali, che gli ha salutato? Uno gli ha detto, beh Claudio. Va bene, avanti Fabrizio. a Vicenza. Natalino mi è sembrato la voce, forse la chiama anche la moglie. Vabbè. Gappa. E tu non ci andai di Fabrizio Ilaria? E Fabrizio gliela conosce mia figlia. Esperienza McDonald's. Fabri. Ah, già è bella, già è bella. Baci. Tu gliela conosce Ilaria. Tanto è sempre lì. Oramai si è fatto la gavata letta e chi? Pesci Maria, guarda. Santa Dio, mica adesso è rientrata alle 8 e 4, ma mezzanotte, l'una, sempre in Chivi. Questa mattina ha preso il Torino, poi rientra, poi torna a andare, sempre andando a tornare. E vabbè, meglio così, meglio ci sia lavoro. Natalie, ma che aggiungo è? No, io a volte fa così, noi lo chiama la moglie e si allontana, capito? Tu sono sia un quarto, non si intende Marco, non si intende Gianni. Vediamo se c'è Valerio ad Alghero, attento Valerio. No, Valerio che si è andato a fare qualche foto, lui ogni tanto va a fare fotografie. Buona giornata anche oggi, sono stato male che corpo stamattina. È molto prima, poi quando ho parcheggiato la moto, ho preso la macchina, sono fatto questa decennia, prendevo un aperitivo, la macchina che corre, un caldo a morire, c'è. Cioè. Sì, c'era caldo, anche in moto c'era, cioè, il bottone della moto. Poi sotto le camicie stavo bene, una bell'aria non è passa. Poi ho parcheggiato, ho preso la macchina, perché dovevo passare lo spia a prendere l'acqua. Della Marche Corte stava veramente bene. Natalie, e oggi a tu di che hai parlato? Adesso assieme a Fabrizio. No, ho detto che Fabrizio la conosce, l'aria mia figlia, lui andava spesso a McDonald's, capito? E quindi la conosce, si conosco. E ancora non c'è andato a nuovo locale. E vabbè, e che dobbiamo fare? Tira campà. Ciao EG, ci sentiamo, dai, ci sentiamo più tardi, siamo qua. Avanti Fabri, ti saluta anche Fabrizio, ciao, e torna giù, dobbiamo stare in giro. Vabbè, capito hai Fabri, è un casino, è lì, è un casino, mi sembra ci sono troppi favoritismi. Ascolta, ma quel delfino, il coso, lì sempre c'è. Ah, ecco così. Vale, tu sì. Ah, Giuseppe, ciao, buonasera Giuseppe, abbiamo ascoltato un po' tanto. È perché parli insieme a uno che non senti, qua c'è, se gli sta parlando, uno che da te non ti arriva. Sì, Fabrizio mascherato, che non ti arriva a te, non lo senti. Come stai? Ah, ho capito. Per il resto tutto a posto, tutto bene. Meglio così, sono contento Giuseppe, sono contento. Avanti Fabri, Giuseppe davvero, ma non ti sente. Tu sicuramente già lo senti. Ma lui non ti sente, non ti sente, va bene. E lì è un casino. No, non hai capito lì, quello che c'è di fronte al Toluca, che faceva anche tabacchino, cos'è? Sempre c'è quello. Ah, quello all'angolo sto dicendo io, che poi si va dove c'è il gabbiano. Sì. Ma il gabbiano è sempre attivo, mi pare aveva preso fuoco, cos'era successo? E il ristorante lì dove c'è il chiosco, là. Si attraversa la spiaggia e si va lì, sempre c'è quello. Certo, il gabbiano, il pescatore, e così avevo sentito. Così avevo sentito l'anno scorso che avevo preso fuoco, poi come si diritto. E vabbè, anche quello di Sandro l'hanno incendiato un paio di volte, così è. Ma è assurdo una cosa del genere, perché smontare quelle strutture, io l'ho vista montare, quindi smontarla è un casino, non è una cosa facile da fare in pochissimo tempo, ci deve lavorare almeno per un paio di mesi, perché la struttura poi sia idonea e sia efficiente, capito? Non è che puoi attaccarla ai gruppi, caspita c'è delle c'è una struttura anche molto pesante, abbastanza pesante, ci vuole la gruetta per mantenere le cose, capito? Fabrizio lo va vedendo in LPD, in PMR, arriva a fondo scala pieno. A fondo scala pieno, mai visto un segnale del genere? Oh, è in tutto parato! Cosa è dentro? Un bambino. Mosca era pieno col 475. Uno scalapieno. Un bambino. Sai che ti ho parlato? Strano. Non l'ho mai sentito. Mai, la prima volta. Siccome qua sotto ci sono dei camper, l'altro giorno li ho visti che ci avevano questi. Che avevano questi PMR, quindi non vorrei che sia qua sotto casa. Ehi, dimmi, dimmi Natali. Più di 9 sì, cosa hai fatto? Fortissimo sì Natali, più di 9. Di nuovo il grande è attaccato. Adesso sì, 9, più di 9 sì, modulato. Più di 9. Tira su il Mickey Game però Natali, che non sento radio forte. Adesso già sei tu. Adesso sei tu. Va bene, alla grande. Più di 9 sì Natali. Fabrino, senti Natalino. Bene Natali. Sì, perfetto, sì. Santiago, più di 9, radio 5, perfetta. Solo stare così con l'accordatore attaccato, che sì, perfetto. Va bene. Va bene, va bene. Però la radio è più forte quella del presidente. Adesso va bene. Però quella là è più amplificata, Natali. L'MB più 4. Bomba. No, ti sa tu a niente. Segnalone c'è, hai visto? E siamo a posto, va. Più di 9 stai arrivando, più di 9. Se Santiago 5 da Fabrizio, vai Fabrizio. 9, 5, radio 5. Ah, Ratapignara lì con te. Una viaggia ci ammallo io. 9, 5, sì. Figurati quanto arrivi da lui. Da te mai arrivi da Eto, va. 9, 5. Da 8 sei passato a 9 più 5. Ecco. Ciao Marco, buonasera, ben sentito, registrato il break. Aspetta che abbasso un pochino il V. Sì, la tua modulazione con quella radio, la tua modulazione è come quando la usavi a casa, capito? Faccio entrare a Massimiliano, buonasera Massimiliano, vedi un po' se ha migliorato Natalino, qua è 9-5. Positivo, buonasera, la tua canuta Natalino, ha saluto Luci, sia una bomba, si vede l'antenna esterna, 9-5, radio 5, 9 ali punti, stai arrivando quasi, figurati, ottimo lavoro. Ciao, a dopo, saluto anche a Marco, avanti Fabrizio per Massimo. Senti, ho già fatto quello come sottabino, ero con secondo tutto. Ehi, vabbè, intanto si assomiglia. Politico positivo, sì, sì, no, mi giuro più. Sì, c'è la tradizionaria. Adesso finalmente con l'accordatore riesce a accordare bene, dare potenza, eccetera, eccetera, capito? Lì si sente un po' da piccoli, non arrivi, non arrivi. E vabbè, c'è l'antenna della macchina, ben messa. Con un bel piano di massa e funziona bene, anziché mettere quelle fesserie che volevo mettere, per una macchina messa esterna, se è messa bene fa il suo lavoro, non c'è problema. Per quella una PDC, adesso mi costa una 1000, non siamo 800, non lo so, comunque. E beh, Massimiliano, a posto? Sì, sì. È entrato da Trabacco, ma non l'hai messa ancora la radio là? No, ho già fatto sta cavolo, ma devo portare al telefono che ciò che cade la sera non più. No, non potrà caricare. Cosa devi respirare? Quelle polveri, lascia perdere. Ci ha visto cosa mi è successo a me per respirare. Passiamo un detto. Ma non mi butti più però. Non sono andato sfurgo, ma ne esco fuori e si arrangiano sempre lì a dare una mano, a guardare, a fare, capito? Ma ora si arrangiano, non ne voglio più. Ehi, tanto cosa mi fa la radio, bello di due, che non funziona, come ti senti? Ehi, chiaro, proprio scusa, stavo sbadigliando. Buona serata, grazie alle due chiacchiere, fatti sentire, siamo qua. Vai Massimiliano. Sì, fai, già sono qua, ti preoccupare. Marco, in macchina sì? Marco? Ah, va bene, va bene. Va bene, già sono qua. A Marco, glielo chiamo. Io non stavo chiedendo a Marco se c'era il baracchino in macchina, perché da Mantellino che gli ha portato l'accordatore e tutte le cose. E io quello che non faccio lì a sera. In via 3, era 2 watt. Si è tirato un po' sulla potenza, perché adesso è a 0, quindi arriva molto bene. Sì, sì, un libro. Tira il caffè, faccio. Vabbè, cosa vuoi fare? Oggi non c'è tutta la settimana, ma insomma, vabbè, chiudiamo la bellezza la settimana, andiamo a mangiarci la pizza. insieme, poi a Brescia, lunedì e martedì, sabato e lunedì e martedì, mercoledì mi è arrivato a lavoro. No, no, vabbè, è il tempo di finire queste punture del cortisone, cioè tutta questa settimana, capito? Cioè fino a sabato, e poi basta, poi ho finito. Domenica, lunedì e martedì, vediamo come se sto bene, ma penso non ci siano problemi comunque. No, mercoledì. Faccio mercoledì, giovedì, venerdì, non so se devo lavorare sabato o domenica, non so. Comunque rientro mercoledì. Ma ci venga. Se sto bene io non sono buono a casa, poi c'è mio collega che sta diventando pazzo, veramente siamo tutti i giorni in contatto. Tutti i giorni ce n'è una, gli hanno affiancato uno che hanno portato su da Canica, ma non è all'altezza manco di lasciamo un pezzo, e quindi è grande difficoltà. Voglio rientrare per quello, sto bene, non me ne frega niente, lui è stato sempre con me molto solidale in tutto, ho capito, abbiamo un buonissimo rapporto, voglio rientrare proprio per dare la mano a chi è disciplinato. Più di un mese che non riposa, perché chi è morto? La mamma, e quando? Mi dispiace, non ce l'ho il numero di bombore, forse ci ho mandato il telefono, bisogna che me lo inserisca in questo, e così ce l'ho su WhatsApp, capito? Se c'è il numero, Massimiliano, aspetta che guardo se ce l'ho, me lo scarico dall'altro telefono. Me l'hai mandato tu? Va bene, neanche io lo chiamo, Massimiliano, ma adesso me lo scarico su WhatsApp e le mando le condoglianze su WhatsApp, capito? No, non fa chiamando adesso così. Ma lo chiamo più avanti, io non ce l'avevo il numero. No, in questo no, ma mi sto accendendo l'altro Samsung, quello senza niente. Se ce l'ho sempre nuovo, lì ce l'ho tutti i numeri che non ci sono qua, me li prendo da qui mano a mano e me lo carico, capito? Me lo scarico là. Tra l'altro è un Samsung. Eccolo qua. Quindi adesso mi chiamo anche a caricare questo, la rubrica. Aspetta che guardo. E io me l'ho mandato. Hola. Attenzione, canale 10. Hola. Ebbene, doppio router, non c'è. Va bene, dobbiamo fare anche queste cose, Gianni, dai. Lo stress è aumentato. Lo so. Mia mi ha messo l'accordatore, arriva 9,5 qua con l'accordatore inserito, arriva anche agli punti e sono trena via. Ah vero, e quando stai usando quella piccola? Io già lo sai, sono pronto. Ho capito, porca miseria, infatti quello che stavo dicendo è Eugenio, che lui adesso c'ha una furgonetta, ma vuole mettere l'antenna al centro tetto del furgone, capito? E gli ho detto non mettere antenne molto alte, perché già è alta, se passi sotto qualche albero e fasci tutto. Ma che nessuno viene, fammi turbamento. Ogni turbo qualcosa di piccolo, c'è bisogno di mettere antenna grande, capito? Perché in alto, poi al centro tetto lavora molto bene. Non c'è problema. Va bene, domani mattina vado da Daniele a prenotarci il ristorante per domani sera. Come? Sì, lo aspetti lì, dove hai detto tu, siamo vicini. No, già, ma infatti cerchiamo di stare vicini. Intanto viene qua Valerio a casa alle 7:30, capito? Tu devi fare solo quella cortesia. Ti prendi Marco e poi passando ti carichi a Natalino. Ci sentiamo al telefono a quell'ora, così mi dici dove sei fermo e andiamo assieme, capito? Ti puoi fermare lì dove c'è il rifornitore di Aeroporto Torres, il primo rifornitore di fronte al cimitero, ti puoi fermare lì dove c'è Mele, dove c'è Alessandro, quello delle moto, ti puoi fermare da qualsiasi parte, basta che si vela e metti appresso a me. Esatto, io scendo da lì, capito? Scendo direttamente da lì, ti aggancio e andiamo assieme. per farvi dire, c'è la barattina, la macchina, quindi la faccio mettere la macchina dentro, e non c'è problema, così è tranquillo, sereno, e andiamo, scendo e viene con me, va bene, no, piuttosto Antonello Alessio devo sentire, se, viene, non me l'ha confermato Antonello, mentre la stasera se no le faccio un colpo di telefono, se no devo passare a prendere anche a lui, io, capito? Ma io direi verso le 8, andiamo lì verso le 8, ci sediamo, ci beviamo qualcosa, con calma, ci sono i televisori, c'è tutto lì, capito? Quindi alle 7:30 è arrivato Valerio a casa, e Eugenio sa già dov'è, quindi sale e alle 8 si fa trovare direttamente lì, e noi alle 8 siamo lì, non c'è problema. Se alle 8 dobbiamo essere lì, Valerio alle 7:30 è qua, io se devo passare a prendere Antonello ci metto 5 minuti e poi fare il giro del palazzo, capito? Ne ho preso mezz'ora, quindi prenditi mezz'ora anche tu, alle 7:30 sotto casa di Marco, allora prendi a Marco, a meno 20 sei da Natalino e siamo in orario. Sì, sì, beh certo che lo sa, e lui faccia la cosa che non ci viene, è uscito, so che era da Natalino poco fa, quindi già sta bene, sicuramente si è preso le supposte ieri notte, perché è stato influenzato quella lì, ma tra dormi rubigiamo che ci sta sempre al culo, e poi già vedi trascriviamo di un'altra diversa, siamo con una torre dovremmo essere 7-8, adesso mi ricordo. Ascolta, dove sei adesso? Vediamo il segnale, dove sei? Sì, è sempre uguale il segnale, ma cosa ti si è rotto? Ah, ho capito, l'hai fatto indurire prima e poi l'hai piazzato nuovamente l'antenna, va bene, va, entratene a casa, io sono qua, ok? Le 7:05, fortissimo, 9:10, sì, quasi, radio 5, perfetto, eia, eia, Marco, va bene, concede, già sono qua in ascolto, come stas, Attenzione, canale 10, capo. Eccomi già. Vedo bene. Sto chiudendo la finestra, che sta entrando un'aria. Ma non c'è. Pensavo che c'era caldo. Io l'ho lasciata stare stamattina, l'ho visto già adesso, in questo momento. Io invece l'avevo aperta poco fa, invece ho visto che sta entrando aria, fredda. E allora l'ho chiusa. Non è, non è. Sì, mi dice, ce n'è pigiata là, fatta la mamma, vieni qua, non vieni, vieni. Dico, ma alle 7:15 lo porta l'aria, tanto lì, poi esce nuovamente alle 8, capito? E così io sono libero, non problema. Io però quando capita che io sono impegnato già lo porterai, capito? Sono già una parte mia moglie, ce lo porto, c'è problema, fermo, non mi leccare anche tu, cazzo, ho già vediato l'appuntamento con te, diciamo, ah, oggi sono calinghi miei piedi. Ma se tu la dici perché la mattina non c'è niente di perché tu quando si sveglia, hai capito, dopo la prima finestra della scala, si a faccia con le attaccate all'occhiato, si quando della faccia si attaccate un pugnato. Stai giri mangiando, sei Matteo Filippo del mondo dei sciocchi. Stamattina io sono uscito alle 8:30, io esco a quell'ora a fare colazione, eccetera, rientro verso le 9, come si dice la porta aprire, si è alzato, è venuto incontro. Allora l'ho portato, 9:10 l'ho portato, se no, sì, magari ce ne bisogna di sì. Noi alle 7 scendiamo giù, alle 7 meglio a morire, io poco da me. L'avete abituato a piccolo così, come lui, l'avete abituato a quegli orari, capito? Poi è molto più pigro il burdo inglese del tuo. Ma pigro, mamma mia. Ascolta, il tuo si corica al sole nel poggiolo? Sì, sì. Sciù. Mi dice, quando ti vedi solo, va sicurica, tocca a mettere anche il lettino. Sicurica, lo sento respirando con questa cosa fatica, vuoi niente dalla canelli, ma perché non tenerci dal sole? Invece le piace. E sto fa bene. No, ma invece abbiamo un tappetino fuori da casa, no, perché i piedi per entrare in casa, dopo magari ci fuori. Però un tappetino, uno sicurica, col tappetino, sta quando si stacca, si apre e lascia il tappetino, che questo? No, tappezzino. Lui lo vuole portare proprio il suo lettino lì. Allora glielo porto, glielo metto lì al sole, lui si curica. Sta buono, ma un bel po' ci sta. Capito? Mi vuole passare la polvere, è stato ricatto lì, pulisce, va per terra. Ed è sempre bucata lo giorno. E poi quando si stufa se ne entra, non c'esce più. E allora gli rimetto il lettino suo al solito posto. Resta lì, dai. E sono cani buoni, mamma mia. Sono cani abbastanza buoni, tranquilli. Ruia, ruia, ruia. Mamma mia. Sono stanco di non far niente, già. Cucci. Sì, già lui. Stanco, stanco di non far niente. Io esco solo la mattina, un'oretta. E poi basta. Anzi, oggi sono uscito dopo mezzogiorno, ho fatto un giro in moto e poi sono andato a prendere l'acqua. E sono entrato a casa, era l'una 10, l'una 4. È finito, è tutta la gira, oggi. Televisione, radio, radio e televisione. Adesso qualche cosa è claro, vedo fatto anche di malattia. Qualcosa va sola. Adesso l'ultima volta che sono andato non c'era il dottore, si è sentito male, si è dovuto andare, adesso ci hanno scelto che cosa. E dopo non volevano fare la medicazione, avete preso il pericolo, però si aspetta, esattamente, lo fa fare a tutti. E non so, ma io non ci ho fatto il dottore, ma fa la palla. Alla fine ci ha fatto la dottoressa, e infatti non è fatta come fa un peso. Allora, l'ho preso in due e mi hanno fatto la medicazione. Se no sarei andato in banca, e l'ho toccato, non si andavano a dormire, per venire qua, e poi non ho fatto la medicazione. Ho detto, guardate che c'è tutta, non me lo posso lavare perché pensa, se non me lo, disinfettate, almeno, a cosa? Io capo, devo stare con tutti gli inizi, se non mi cambiate la fascia. Perché quello è praticamente un cerotto particolare, che gli arriva loro da fuori, cose, è un cerotto che ce la combattiva, no? Capito, capito. Vabbè, ce l'hanno fatta, meglio così. Ma è chiuso del tutto adesso, c'è sempre quel puntino. Beh, puntino piccolo, piccolo, piccolo. Ma si sta cadendo, sempre più prima era per la prima, adesso è più stretto. Ma speravo bene. Io ho fatto un po' fatto una cosa. Ma Marco voleva questo gioco. E dovevo andare a visto la città mercata. C'è aveva sempre Marco. E lui dice papà che se no qui non ho preso quell'altro fumo, ma poi sulla freccia di una città mercata mi ricordo che stai per le macchine, via cosa, come macchina. Stai per il caso di macchina che faccio una scena di verificare, io non sono fatto verificare, mi ricordo di ma se tu vedi in realtà te capo, fai in fretta, questa cosa per la sulla freccia. Oh, 10 minuti mi è venuto il flash, ma no, ma lui era tranquillo, era coricato. Ah, ma infatti, già stanno buoni, no, io mi chiamo mai lasciato. Quanto si è rientrato Marco con Natalino? No, ma questo volontariamente, non lo voglio dimenticare, non è capo. Ah, l'hai lasciato proprio lì? Ma mi sono dimenticato di sceglierlo. Sì, già. Vabbè, non capo che si chiama. Vabbè, ma ormai già non stavo facendo molto caldo, là. No, era di sera tardi, lo sapete me, ma... Cosa stavo dicendo? Non mi sento la Sono tornato, ho preso la grande, poi sono tornato e ho preso preso la macchina a prendere l'acqua. Via, io la quando ho fatto la spesa, pensavo di fare le cazzate, invece le buste di spesa. Allora la roba che casa diciamo, uno fa l'idea, il cazzo ce l'avevo in testa, il giubbotto ce l'avevo addosso, il cazzo ci sono stato tre buste di spesa a piedi. Sì, io non so, un po' spazioso, è come il T-Max. Diciamo di spazio nel sotto, capito? Se poi li metti in bauletto come c'è tu ancora di più, però quella c'ho io non c'ha niente, non c'ha sottosella, non c'ha niente, capito? Quindi se devo prendere qualche carta vado con lo scooterino, e se no mi tocca andare in macchina, capito? Non so, però c'è un po' di spazio, parecchio, anche l'altra che avevo, il X-Max c'aveva un po' di spazio sotto la sella, e vabbè, però bisogna approfittare, basta così, io ho la moto per l'estate, la macchinetta per gli spostamenti, lavoro, balle varie, la macchina che mi ha detto di uscire, poi ripeto, se mia figlia vuole cambiarsela, se ce la cambia, che a me non me la fotte proprio nulla. Anche io la vorrei cambiare, Claudio, ma non so se farlo, perché c'è più paura che magari ci abbia qualche cosa, che la vita vada male, adesso hanno fatto le medie, esatto, quello che ci hanno fatto l'imponitore del gas. Stamattina c'era il lavoratore, dice che c'è la gente, ci l'ha pure. Yeah, okay. C'erano, hanno messo palloncini, gli appesi, e qua la nominata. Per vedere che c'è la testa, no? Non c'è la luce, e dice che la pieno di più di gente, magari anche la convenienza di questa, eccetera. Già, in questi supermercati c'è la convenienza, cioè io ne ho due di Eurospin, uno giù e uno su, sono sempre pieni, e c'è la Sigma, no, il Strober che lo sai, no? Che è vuota. È vuota, non stanno facendo niente, nulla, capito? Nulla, perché sono troppo vicino, ci sono le rospine, sempre pieno, sia questo di via Calofelice che quello di via Verona, sono tutte e due pieni, tutto il quartiere va lì alle rospine, di qua oppure scende giù, e la Sigma qua è vuota. Manco pescheria più c'è, perché no, non ne vale più la pena. Sì, diciamo che adesso i denuti che vanno sono qui, grande tempo di soldi, se si accorge che ha preso il circuito di spesa, e con lo stesso dato ne prende tre, non è venuto normale, si fa così, diciamo che con bene no, che anche la roba è buona, è normale. È così, Noi oggi è andata la Conad, perché c'erano cose che doveva prendere particolari, è andata lì, però detto c'è un abisso, cioè è troppo cara la roba, assolutamente. E ti dico che le rospine, insomma, sta offrendo un bel servizio, la roba è buona, chiaro che c'è delle sottomarche, qualcosa c'è di marca, però va bene, ci troviamo bene, quindi perché non risparmiare, mettendoti in tasca i soldi. Oppure come hai detto tu, anziché fare una busta di spesa ne fai tre. Vediamo se c'è Gianfranco. Gianfranco, c'è Gianfranco. Non gli ho detto niente, io e lui mi sono etichettato. Se voleva venire anche lui. Vediamo se entra, se lo sento glielo dico. Che siamo migliori. Anche me non ho sentito. Mi avevo il telefono perché. Mi hanno detto Marco, dice che non c'erano problemi, però voglio venire la conferma, perché non la tengo pronta. Devo prenotare, bisogna sapere il personale. Lo so, ci siamo sentiti di notte, mentre mi davano una risposta, però non me l'ha data, non so se viene, perché forse c'è qualcosa a casa già organizzata. Emilio. Non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, non va, bambina deve spostare la macchina. Come va lì? Ricordati domani, mi alle 7:30 a casa. No, ma infatti ci ho pensato a questa cosa, Gianni. L'ho detto perché già stava col problema, e siccome c'era anche Natalino quel problema, anzi più di lui, perché lì è ancora peggio. E questo, vabbè, Gianni un attimino sale, intanto scende la via da lì, poi passa per Natalino e ci troviamo via il produttore. Valerio viene qua, viene assieme a me, così è già fuori zona, non c'è bisogno di niente. Beh, Valeriano, noi a quell'ora dobbiamo essere io pronto per le 8, capito? Perché venerdì, come diceva Gianni, fate anche una figlia, me l'ha detto, di prenotare, perché altrimenti non c'è posto. E niente, tu le 7:30 qua, non ho sentito Antonello, conferma Antonello. E basta, avanti già, attacca perché non ti sente Valerio che c'è QRM un bel altro. Valerio, mi senti adesso? Ma cos'è? Vento di mare? Perché qua non ce n'è il vento? Non facevo che ci fosse veramente il vento fuori. Ho capito, come se ci fosse il vento ma non c'è. Cambio. Mi sento nelle casse. Cambio. Non è caccia del computer, cazzo, allucinato. Ah, aspetta che mi sono alzato un attimino, anche le gambe. No, ho detto sedia d'ufficio, sono così rilassanti che ogni tanto ti devi alzare a farti una camminata, capito? Vabbè, era stamattina in giro, alle 8:30 sono uscito, poi sono rientrato, ho provato il cane, poi sono tornato a uscire, e proprio nella sera, capito? Dopo pranzo io poi non esco più. Quindi mi sdraio dalle 4:30, alle 5, e poi sto qua. Adesso mi devo uscire, tra un po', portare di nuovo il cane, poi già fai i cenni e hai finito. Andados. No, vale, aspetta un attimo, ti passo il microfono. No, mercoledì rientro, mercoledì prossimo. Mercoledì, devo finire questa cura, la termino sabato e domenica, non due martedì, me l'ho presa come controllo, diciamo, là. Mercoledì me ne farò lavoro, e sennò, vale, sennò mi rilasso troppo, c'ho un sacco di cose da fare, un sacco, e devo riprendere subito in mano la situazione, sennò Sant'Antonio mio. Avanti Natali. Allora, non sente Gianni, giù mai, c'è QRM altissimo. Sente la roba Natali adesso. 9:05 qua, vai Natà, vai qua. Ah, mi ha radio. Hai visto il corrattore? Non lo senti a Natalino, no, vale. Quindi a me non mi senti, perché sono Santiago, sì. E se non lo dici tu, figurati. E sono con o 20 watt e 30 modulati. Non tengo sempre bassa per radio, non lo tiro mai. Da quando me l'ha messa a posto Biancone, mi ha detto, mi raccomando, che è anziana, non la tirare, che tu sei malato di vecchia. Doppio, hai visto che miglioramento Natalino? 9:05. Sì, anche qui erano 9:05 la differenza qua. No, da 9:05. Quando parlo. No, vabbè. Adesso ci vorrebbe una bella antenna. Non c'era l'antenna. Ora stai a mettere l'antenna. Va bene quella. Adesso aspettiamo, quando il tempo buono, poi come rientro io, faccio il sopralluogo prima, guardo che scala ci vuole, una domenica mattina si va e si fa quello che si deve fare. Ci vogliono fatti, non parole, capito? Non mi fa niente, fa vedere, non fa nulla, mi si girano i fibristri. Poi l'ho data lì, ma le scoposte è arrivato, è andato a aprire, e buttaci fuori la data pignara, sempre contro il comune, sempre a destra e sinistra, ecco. Ho sentito Giuseppe, mi pare, c'era Giuseppe stasera, ma non mi fiocco, mi fai giù, ma parlando sta, non arriva qua, e qua non arriva niente, tocca al PL, grazie madonna santa, non avere 5 minuti andare a metterle a posto questi PL, che... cosa mi ti dica, allora cos'è, cos'è la radio? Non lo so, boh, cosa ne so io. L'ho sentito stasera da 9, adesso non lo sento più. Dillo a toccare il PL dietro, il PL della radio, dillo a toccarlo. A toccarlo, svittalo, avvittalo. Sì, ma di avvittarlo e svittarlo senza parlare però me. Lo svitti, lo stacca e poi lo torna a attaccare. Sono il bolscevista, un chi? Ma cosa va bene? Se non lo sento, tu lo senti già. Ah no, se sono con la potenza lo passo. Ah va, io lo so, va bene, chi è? Giuseppe, che sta uscendo basso all'alghero. E Valerio ha detto, giù ti copre Claudio. E se sono con la potenza già lo copro, sì. Ma Giuseppe che ha fatto il chiocino, quanto è qua? Sì, 80 li ho dato io, già. Non li voglio capire. Quanto lo fa? Lascia perdere già, tieni quelli che hai, non te ne va niente. Giuse, mi accoppi. Sì, ma lo stai arrivando, sei Santiago 13. Aio, spegni la radio, riaccendila, controlla il PL, controlla tutto lì. Se sta crescendo bene poco fa, eri Santiago 9. Ma tutto lì ha da scocci, vaga. Tutto legato a scocci lì. Ma c'è legato a scocci, Giuseppe, no, no, quello che c'era dal giardino, mi, adesso è riapparso, mi. Come sei Goldri, Gil? Tu sei Goldri, un po' sparisco, un po' compaio. Boh, non ho capito come fai a poggiare le dita sopra un PL e questo PL che cammina. Boh, Giuseppe, no, non ti comprendo. Guarda, è una cosa allucinante. Un giorno ti sento 9, un giorno non ti sento, un giorno ti sento male, boh. Sono veramente preoccupato. Gianni, lo senti adesso? Bene, lo senti. Qua è Santiago 9. Santiago! Lo senti a Gianni cosa ti ha detto? Ti ha detto Santiago 8, qua sei 9. A galla sono io, che fra un po' affondo. Ma te, Giuseppe, non mi ascolti? Ah, però perché l'hai incastrato, non ripeti cosa ha detto, non pensavo non mi ascoltasse. E se sei riuscito a andare a fare il centro del lotto, così. Vabbè. Adesso così vai bene, ma prima ti ascoltavo tutto. Sai già cos'è, che lui è un ragazzino, capito? C'ha 86 anni, ed è un ragazzino. E quindi ogni tanto non sa dove mettere le mani. Ma è vero, scusa Giuseppe che ne hai 88. Porca miseria, te ne volevo togliere due, capito già? Ha 88 anni, se lo vedi sembra un ragazzino, no? E non sa dove mettere le mani, quindi si appoggia sul PL. Basta non toccare nulla, lasciare tutto come adesso. No, no, io te ne volevo togliere due, Giuseppe, la verità. Ero convinto 86, invece ne hai 88. Aspetta che non parlare, che rilancio il microfono a Natalino, se no mi sovramodulate perché c'hai il segnale su. Avanti Natalino. Se no, assieme a Giuseppe e a Valerio adesso, se parlate tutti e tre assieme non ci comprendi nulla, ci avete tutti e tre lo stesso segnale. Va bene, ascolta, Marco l'hai mandato via, va bene, 9-5 Radio 5, sì, peccato che non ti sente Alghero, però ottimo segnale, vai Gianni. Ma quei parcheggi di San Marini non si possono utilizzare, quei parcheggi di San Marini non fa scendere, a metterla lì la mano. Ottimo segnale, 9-5, la 9-5, la Radio 5 perfetto. Il Magnum, già vai bene, 9-5, sì, alla grande, Radio Super 5. Avanti, va lì, 8-4 sono già, un altro po' e poi andiamo a portare i cani, vai. Avanti, va lì. Beh, Belchirotti. Beh, Belchino. Tutto a posto, tutto a posto. Ci aveva 3 e 3 di stazionale circa, 3, 2, 3 e 3. Con l'accordatore, puff, sparite le stazionali. Qui arriva 9.15 pieno, 9.15 pieno. Come prima, diciamo, perché anche se accordi, cioè in finale non vedono stazionarie, però insomma l'antenna magari perde il 10% di potenza, però buono, buono. Allora, notizia, Bobonia non può venire, perché deve portare roba per il ricovero del fratello a Chiesi, capito? Non può venire domani sera. Tra domani sera e dopodomani mattina devono fare un bel di roba, documenti. Infatti io volevo solo la sua conferma, vabbè, quindi siamo 7. Va bene, ok, hai fatto bene a dirmelo così non ho telefono. D'accordo, vabbè, se c'è il fratello c'è certo problema, priorità al fratello, giustamente. Allora, cambio per Valerio in Alghero, vai Valerio. Ehi, ciao Valerio. Eia, di più non posso fare, a meno che non voglia attaccare l'aiutino, ma spero di passare con 4 watt, dai. Eia, tu sei a manetta qua, altro che limite, a manetta sei. Bene, bene, peccato per Pomporio, dai. Avrei voluto che partecipasse, però proprio non può. Sarà per la prossima volta. E quindi quanti siamo, Claudio? Elio, per esempio, ha dato il benestare. Che cosa, no, Marco? Elio, risposta te ne ha dato. No, negativo, sto aspettando, ma detto che non lavora oggi. Lavoro, ci siamo usciti di notte, allora di cena. Ma penso di no anche lui, perché forse c'è gente a casa, non so se abbiamo dato qualcosa alla moglie. Fine settimana, non lo so, comunque aspetto, poi le mando un altro messaggio e così domani mattina so quanti siamo e prenotto, ho capito. Comunque alle 7:30 Gianni passa a prenderti, ok? E poi scendete veloce a prendere Natalino, ci troviamo alle 4:00 se partiamo. Ok, bene, bene. Caspita, il pacco in 2 giorni è arrivato, Cioè, come ordinato, hanno spedito subito e quindi è arrivato oggi stesso. Aspetta, guarda che raramente mi SDA è arrivato in 2 giorni, solo una volta nella storia mi è arrivato in 2 giorni. Vabbè, meglio per Natalino, dai. No, è normale per tutti. Allora, se io faccio ordine la mattina e il pacco parte giornata, si contano 3 giorni lavorativi. Quindi martedì, mercoledì, giovedì deve essere in consegna per forza. Perché se no ti puoi lamentare. Io con SDA, quando ho ordinato dalla CSO, anche ultimamente, 3 giorni lavorativi, ok? 3 giorni lavorativi. Molto più veloce la GLS, molto più veloce. Però SDA, se ritira, al momento in cui tu fai l'ordine, nel momento in cui tu fai l'ordine, per dire, lo fai alle 11 la mattina, e loro chiamano in SDA e dico, a mezzogiorno venite a prendere un pacco per partire per la Sardegna. Loro passano, lo ritirano, da quel momento lì è già in consegna. Quindi sono 3 giorni lavorativi. Capito? Io lo dico a te, martedì, mercoledì, giovedì. O giovedì mattina oppure venerdì mattina. Quindi è giusto, anche se via va bene, vai. Avanti Giuseppe, Giuseppe, per te via aerea un giorno. Ma cosa ci rendi? Cosa stai dicendo? 2 giorni l'antenna è qua, non ti preoccupare tu. Adesso dobbiamo solo aspettare il tempo bello. Capito? Tempo bello e voglia di fare. E poi vedrai che ci temiamo anche a te. Ma ti posso dire che secondo me tu non hai bisogno di antenna. Hai bisogno di far funzionare quella radio. Guarda, qua sei 995, più o meno come Valerio. Valerio è un po' più alto, quasi a 10. Ok, un ultimo segnale. La radio è buona. Marco, come lo senti a Giuseppe questa volta? Aspetta, non ho guardato. Giuseppe viene avanti. 7. 7, la radio è buona, no? C'è il microfono normale, sta usando. Sì, sì, abbastanza buona. Prima mi arrivava più basso, tipo 5, 4, adesso è più alto, più alto. Che antenna ha messo? C'è per la Gran Plincia, ma siamo riusciti, capito, via fax, via meteo, capito, col drone, no? Cercare di farlo regolare con la radio. E è andato Valerio, ha sistemato un po' tutto perché io ho tempo di salire al dietro, non ne avevo, e quindi si è un po' arrangiato Valerio, capito? Se non tocca, non tocchese, non tocchese Giuseppe, non tocchese, vedrai che vai bene, avanti già. Comandante! Stai mangiando, va bene, avanti Natalì, avanti Valerio. E vedrai se vado io la metto l'atta, che così non lo muove più per niente. Bene, bene. Un altro utente bello recuperato come segnale. Natalino, ci sei? Sì, caspita, è quasi 9:20 il segnale. Ottimo, ottimo. Abbiamo salvato i finali, più che altro i finali, dai. Ok. Ah, ma Claudio, mi sono preso ieri notte vitamina C più aspirina. E come vedi, ho migliorato tantissimo, per non dire che mi è passato, capito? Quando mi vengono infreddature, quelle cose lì, sempre vitamina C e aspirina. Vici, oppure ti fai mettere una sopporta alla mamma tua. batteria, una supposta di vitamina C. No, già me le metto da sole le supposte, è sgradevole, ma quando serve? No, ma la supposta sei febbre, io febbre non ne avevo, ero solo un po'. Minatelino mi ha visto, oggi mezzo nudo, cioè in camicia, sottile, senza niente sotto. Ecco come li becco io i malanni. Poi invece la giacca l'ho messa quando gli ho spostato la macchina, dai. Ah, Natalia, ma sei riuscito a entrare poi? Perché ho visto che uno quasi stava mettendo il muso nel parcheggio. È già 9.20, già 9.20, capito? Quindi ottimo, ottimo per la truppa. Va bene, è forte anche il coso, è forte, il Lincoln, però alle volte, sai perché è troppo forte il Lincoln? Perché tu parli attaccato al microfono, nel Lincoln, siccome è forte, molto, devi stare 10 cm, 10 cm va dal mic, va più che bene, se no poi è come se io parlassi così, mi capito, troppo forte, ma hai detto che è modificato, no? Bene, bene, allora domani sbronza e rissa in pizzeria, sì, e poi scateniamo la rissa, proprio a me, vedrai che mi barrò Coca-Cola domani, Coca-Cola. Ma perché non sei convinto che gli altri cosa bevono? Una caraffetta di vino o una bottiglia di birra, ma cosa pensi? Io la patente mi serve per lavorare, a me non mi serve per giocare, capito? Ce la faccio a fumare per la patente e poi andiamo a mangiare una pizza. Boh, ci ho finiti quei tempi. Ragazzi, io sono pronto, sono le 8 meno 5 minuti, vi saluto, vi abbraccio a tutti, se ci siete a dopo, se no ci aggiorniamo domani, ok? Vale, tu sai già quello che devi fare, gli altri lo sapete lo stesso, comunque ci teniamo in contatto alla radio se non ci siete dopo, ok? Ciao Giuseppe, Valerio, ciao a tutti, ci sentiamo dopo per chi c'è, per chi non c'è a domani, ciao! Ubriaconi fracichi, domani ci sbronziamo tutti. Aspetta per la notte lì. Va bene, ciao a tutti. Ciao Claudio, leggero leggero, per sentirlo nell'autoascolto devi parlare un po' vicino al mic e regolartelo. Ok, ciao Claudio, io rimango qua un po', ciao Valerio. Se non ci sei dopo, finché ci sei è cosa buona e giusta, dai. A domani Valerio, dai. Ehi Natali, stavi parlando sopra Valerio. Tutto lì, va bene. Sì Natali, si sente leggero, poi una volta che lo regoli puoi togliere l'autoascolto, perché se no si sente questo barattolo dell'autoascolto, capito? Gianni, ci sei? Sei in ascolto, Gianni? Sì, io sì che ci sono, Marco. Mi stavo preparando per andare a portare in Italia, perché non si può salutare, Gianni. E va. Ricordati che è molto sensibile, le manopole sono molto sensibili. Tu stai andando stra un po' veloce, invece lì piano piano, avanti e dietro e trovi l'accordo perfetto. Sì, con 1-1 e ce n'è d'avanzo Natali. Ciao Gianni, allora, buona uscita col cane. Se non rientri ci vediamo domani, io mi faccio trovare alle 7:30 pronto. Ok? Va bene, d'accordo. Ciao. Buona serata. Natali, poi passo a prendere a te. E poi magari ti faccio un po' più il telefono. E Natalina ha parlato sotto. Natali, ripeti. Era 7:30 per la mano, Natali. Verso le 8 numero 20. Sì, tanto 5 minuti siamo già lì. Ok. Bene, bene. Vabbè, già, se stai andando col cane, vai, dai, io rimango un po' qua. Vediamo se già. E oggi c'era Eugenio qua piuttosto. Ciao, ciao, ci sentiamo domani, dai. Eia. Eugenio, ci sei? No, tutti spariti sono. Oia, ero fuori dalle 3:15 sono fuori, dai. Ah, non vedevo l'ora di bello di sdraiarmi e far riposare le gambe. lei natalizia cos'è? Mi fanno male le ginocchia anche quando mi inchino nei negozi per cercare roba in basso, mi fanno male le ginocchia. Io sono troppo fermo, troppo anchilosato, è come se fossi un vecchio di 80 anni. Non va bene, non va bene, dovrei fare camminata, camminata. Invece certe volte vado al centro a piedi e poi me ne torno in tram. Te le immagini? Da Piazza Castello in tram, il colmo è me. Ah, per il commutatore dovresti prenderti un pezzo di i cavi possibilmente, falli lunghezza uguale, possibilmente. Sai, per non fare diversi comportamenti del coso. E poi ti prendi un po' di cavo da Fusaro e PL, se ti mancava il pezzone. Io personalmente li avrei fatti uguali per evitare disparità nel funzionamento degli apparati, ma è una cavolata, non ci sarebbe bisogno. Sì, Natalì, chi aveva fischiato, avanti. Bellino quell'apparato sotto, molto carino, piccolo piccolo. Caspita, è incredibilmente piccolo. Infatti, come l'ho visto, mi sono assustato, più piccolo di quanto me l'immaginavo. Invece Natalia, a te piace l'8008, ma come mai? È grande, rispetto al tuo è grande. Eia, cioè è grande, è piccolo l'8008, quello però è microscopico. Poi ricordati, l'8008 non ha i 6,25 kHz. Quindi per esempio per andare a 081.25 devi metterlo a 0,80, capito? Eia. Noi sono così stanco, guarda, ho fatto vedere le foto a mamma, la foto del gatto e il video del cane, ha detto che carino il cane, anche il gatto gli è piaciuto, però il cane guarda, dice che carino, il nome non mi ricordavo però del cane, non me lo ricordavo, io ho la memoria un po' così, anche il gatto mi ha dimenticato già il nome, se me li dici glieli dico. Aspetta che glielo dico, dai. Ah, eccomi qua, gliel'ho detto, Kurt e Ginevra. Gli ho detto che è una femmina, no? Perché prima non gliel'avevo detto. Ecco qua. A mamma piacerebbe il cane, un cane simile a quello, di taglia piccola, medio piccola. Il problema è che poi me lo scarica a me, capito? Poi lo devo portare fuori io, lo so già com'è. So già com'è l'antifona. Invece il gatto è autonomo, fa la pipì nella sabbia, è più per i fatti suoi, non devi portare fuori, capito? Per noi è più adatto il gatto, perché siamo mandroni, lo so, no, infatti il cane non è adatto a noi, preferiamo il gatto, i gatti, capito? Come dicevo, una si chiama Flo, diminutivo di Flora, l'altra l'abbiamo chiamata Puffa, Puffa, perché è tutta puffosa, no? Bella pelosa. Però il nome vero del gatto era Viola, l'hanno chiamata Viola, noi l'abbiamo ribattezzata Puffa, e non abbaia, quello di Pomponi sta sempre abbaiando. Quello di Pomponi è una peste, non sta fermo un attimo, non so se sei stato mai da lui, è un casinista quel cane, è un casinista. Però simpatico, dai. Ogni tanto mamma gli regala, sai quegli ossi, quell'osso con un po' di carne intorno da spolpare, li prende da Auchan e si fa i denti con quello. Si fa i denti con quello. E gli piace mi spolparlo. E via. E quello di Pomponi è un po' più casinista. Però è simpatico anche lui, dai. Ok, guarda che stanco che era, io questa mattina mi sono svegliato, avevo un sonno che non capivo niente, proprio non capivo niente, sono feroce, eppure stanotte ho dormito. Ah, poi stamattina, te lo posso dire, chi c'è vicino a te? Qualcuno? Stamattina ho fatto sogni erotici, lo sai. male perché io sono senza piscina e quindi ogni tanto mi vengono i sogni erotici. Ma te le immagini? Ma me la devo prendere una ragazza, purché sia un'ebbe seria, che sia seria, capito? Che sia di carattere bravo, non come quella belva che avevo io una volta, che era una belva, ed era anche manesca. Bene, domani, guarda, domani per riuscire a mangiare la pizza devo stare tutto il giorno senza mangiare, cioè posso fare colazione di mattina, però poi non devo mangiare nulla, perché se no non riesco a mangiare la pizza intera, lo sai Natalia, c'ho lo stomaco piccolo, e anch'io ci ho pensato, oppure la prendo normale, la pizza, però i bordi li lascio, i bordi troppo asciutti. Guarda, se domani nel menù c'è la pizza, panna e salmone, mi piglio panna e salmone, ho troppa voglia di assaggiarla. Eia, sì, se no vediamo, non lo so, a me piace molto anche, te l'ho detto, quella con le ortaggi, zucchine, rucola, melanzane, non boscaiola, un nome, ortolana, a me piacciono, guarda, le verdure non le mangio tanto, ma sulla pizza le mangio di più, molto buona, poi c'è la rucola che gli dà quel sapore leggermente amarognolo che è buono, eia, sì, la rucola insalata è buona, ok, buonasera, avanti, oh, ciao Gianfra, ben entrato, compagno di Marco, è di Natalino Alfa 1 da Sassari, che però è con l'antenna mini, non so se lo ascolti. Guarda, per me la pizza è come il pane, ci puoi mettere tutto quello che vuoi sopra, è sempre buona. Visto è Natalino, caspita, buono, dai, almeno puoi sparare più forte una volta che l'hai con la storia, i finali sono belli tranquilli. Sì, ripeto, come il pane la pizza, mi piace un po' in tutti i modi, quattro formaggi, non te ne dico nulla, quando mettono il gorgonzola e magari anche la crosta che sale in terra, mi manda in visibilio. E poi, detto tra noi Gianfranco, non ho confidenza molta, non... con te magari non parliamo di solito, ma io mangio anche la cacca, mi hai detto tra noi. Eia, guarda, io ti posso dire che ho uno stomaco di struzzo, posso mangiare anche peperoni a cena, bene o male digerisco, ogni tanto mi viene un po' di bruciore di stomaco, ma quando mangio roba al peperoncino, quando mangio Nutella, quella roba un po' di bruciorino, però a digerire digerisco tutto, quasi tutto. Insomma, buono, quindi domani ci facciamo questa uscita, purtroppo i cibi che vengono sono pochi, perché ogni volta che ce n'è una, chi ha un impegno, chi ha un altro impegno, quindi non siamo mai troppi, però ci accontentiamo. E Corsara com'è? Gianni piace la frutti di mare, a me un po' meno, perché o mangio frutti di mare o mangio la pizza, non mi piace mischiare molto le due cose. Gianfranco, e tu che pizza preferisci? Proprio dovendola mangiare, quale preferisci? Buona, guarda, una volta me l'hanno data, l'ha fatta un amico in via Boggino, all'epoca lavorava in via Boggino, ma era una cosa che non... la bontà non si poteva spiegare, era piena di formaggi, fumante, poi mangiata a tavolino, proprio appena uscita dal forno, messa sul tavolo, era una cosa, mai gustata una quattro formaggi buona come quella. A parte c'era anche un pezzo di crosta, ripeto, a me quando sento il sapore della terra mi piace molto. Buona. Purtroppo questo amico si è bruciato, è diventato nemico, non nemico, ma mi ha rotto i ponti, quindi la pizza ottima che faceva lui, qualsiasi pizza la faceva ottima. Rotte ponti, quindi niente più pizza buona con la sua, mi dovrò accontentare di altre pizzerie. Allora, premi la portante. Sono rientrato. Allora Gianfranco, 8:30, Santiago 8:30, radio buona, buona. E il nome nativo qual è? Poi rilancio Claudio. Lui è. Allora, modulato 8:15, ripeto, modulato 8:15. Avanti Claudio che è entrato. Ehi, vai, solo per salutarvi, andavo a cenare. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti, buonanotte. Ah, se non a cenare, riesci a vedere che ora è piuttosto. Ah, io domani per mangiare la pizza devo stare tutto il giorno digiuno. Posso fare solo colazione e poi voglio avere fame di pizza, capito? Riesci a vedere che ore sono, anche perché vorrei vedere un telegiornale, caspita, le 8:15. Le 8:15, vabbè, pazienza per il telegiornale. Però le 8:30 mi voglio guardare Striscia la Notizia, dai. Va bene, ciao Claudio, buonasera. Ma tieniti bene per domani, ok? E poi a quell'ora ci vediamo là. No, ma tranquillo, non c'è problema. Io alle 7:30 aspetto Valerio e poi mi metto in movimento, vai, già sa tutto Gianni, ok? Ciao a tutti, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, vieni affamato lo stesso, anche tu, bello affamato vieni. Voglio che ti mangi due pizze giganti. No, già me ne mangio una io. Natali, stai fischiando. Sì, stai fischiando. La comunità aumentata, tucca, lascia tutto com'era, stai fischiando. Va bene anche così, non c'è bisogno di sollevare niente, lascia tutto così. 9.5 Radio 5, sì, qua, dai. Ciao, ci sentiamo domani. Ok, ciao a tutti, buonanotte. Oh, tutti a mangiare state andando, io mangerò più tardi, dai, visto che ho fatto 30, faccio 31, dai. Cosa volevo dire per domani? Vabbè, si vedrà, spero che abbiano una pizza, che proprio me la voglio godere, pane e salmone, molta pane e molto salmone, spero che sia di quelle pizzerie che la riempie bene la pizza, perché non voglio vedere un'oliva in croce, una su, una giù, e due acciughette, una a destra e una a sinistra, deve essere anche bella piena la pizza. Per esempio, di solito al mio compleanno, o Natalì, andavamo in via Carlo Felice, come si chiama? All'aperto, lì, sulla terrazza, come si chiama, porco Giuda? Non me lo ricordo. Il Florian, no, non Florian, non mi viene, dai. No, Carlo Felice. Il Liberty può essere, non me lo ricordo il nome. E dentro è fatta la stile Liberty, fuori c'è la terrazza. Prima era lo stesso, un'oliva qui, un'oliva lì. Poi da quando hanno cambiato pizzaiolo, caspita, bella piena, mi. Non riuscivo a finirla, era bella teccia. Capito, hanno cambiato pizzaiolo, l'ha fatta più piena. E quindi, bella, bella la mia pizza. Guarda, io, la verità, la pizza la gradisco in quasi tutti i posti, ma una volta a Porto Torres, da Massimiliano Ciria, abbiamo preso delle pizze da asporto. Aveva questo sapore di plastica bruciata, che poi non era plastica, era mozzarella bruciata. Poi anche la pasta non mi è piaciuta niente, era una pasta proprio non buona, non buona. Lo sai che a metà pizza ce le abbiamo buttate? Sarà che l'ha fatta in fretta perché erano da asporto, ma in realtà anche la pasta non mi piaceva niente. Non ci siamo più tornati, Natalì. Poi non mi interessa a me se lui le fa al volo, le pizze, fa le pizze acrobatiche. A me mi interessa che sia buona la pasta, che sia buona la pizza. Ma lì sapevo proprio di plastica bruciata. Se la memo la fatemi, Natalì. Dimmi Natalì che sono di passaggio e l'ha chiamato la mamma, sicuramente. Ma ti rimano bene adesso, non toccare niente. No, va bene. E sicuramente che mi hai sollevato troppo. Eccomi, sono qui tutto per voi. Allora, un consiglio Natalì. Se tu usi il Top Gun Modulator, la radio è più forte ma è leggermente meno chiara. Cioè più forte ma è leggermente meno chiara. Se vuoi tu se vuoi la radio più chiara possibile, non usare il top gun moduletto, usa la modalità normale, però se vuoi più watt li puoi alzare dalla manopola di watt, te capi? Capito? Puoi mettere in modalità normale, puoi mettere i watt quanti ne vuoi tu. E la radio più chiara, ricordati questa cosa, top gun moduletto è più forte ma è leggermente meno chiara, ok? Però Mach Gain a manetta, metti manetta al Mach Gain con la modalità normale, che va bene ed è più chiara. Guarda, è come sentirti di persona, la voce tua è come se tu sia di persona, quindi così è perfetto, è perfetto. Poi vattene, puoi mettere quanti ne vuoi tu, il resto li da modulati, capito? Ok, Travis, sei ancora, sei andato a mangiare? No, sto preparando, sono di passaggio, vai, sto aspettando. Sì, Natalino, non attaccare il tuo problema, non serve a niente, metti mai che la manetta, in watt te le regoli, 10, 15, 20, quello che è, il resto è già fatto tutto lui. Sei fortissimo, non c'è bisogno di attaccare top di niente, lascia stare tutto chiuso, metti a manetta il Mickey e vedi, stai innescando, stai fischiando, o sei troppo vicino, fai l'ascolto attaccato c'hai, allora abbassa per appena il Mickey Gable. Tre quarti, prova. Ok. Sì, ogni tanto Natale innesca, ogni tanto esci bene, ogni tanto di botto innesca. Magari sai, qualche rientro di RF ci può sempre essere. Ok, naturalmente con l'antenna sul tetto non lo fa. Caspita, io, Claudio, mi ricordavo che il palazzo di Natalino era basso come quello a fianco, che c'era a destra. Ti faccio un casino lì, è un bel alto. Mamma mia. Adesso capisco perché ci vuole la scala lunga. Se ti passa pure di 9 metri. Sì, ma voglio vedere io la situazione, perché io non penso che ci vuole la scala. Perché sì, mi porto un telescopico, ok? La faccio partire da giù, ancorata da giù, e con la scala, anziché essere da 9 metri, una scala da 4 metri, e mi staffo al muro ad un'altezza che dico io, e dopo lo metto al telescopico a partire dai 2 metri ai 4 metri, e farlo sollevare sino a su, no, non c'è bisogno. Lo vedo io quel lavoro, perché io l'avevo già fatto in via Pascolo una cosa del genere. Sì, Natalino, perché siccome dico io che tu sei a terra, ok, io con una scala da 4 metri, a Vigè, mi staffo la prima staffa a 2 metri, l'altra me la metto a 2 metri, mi mantengo praticamente due netti, da 2 metri a 2 metri, e tiro su, cosa me ne faccio della scala da 9 metri? A cosa serve questa scala da 9 metri? Non capisco. Non capisco, ok? Io già, ho già capito lì com'è la situazione. E tu stai pur certo che noi mettiamo l'antenna lì, l'antenna, non un'antennina, l'antenna mettiamo lì. Ehi, caspita, perché io credo che ci fosse solo il primo piano del Natalino, no? Invece sopra c'è un altro piano. E più la parte del tetto, no? Tegole, non so, sarà tegole lì. Invece io credevo che fosse come il palazzo a fianco che c'è alla destra, cioè tu guardi il palazzo di Natalino, alla destra c'è un palazzo con solo piano a terra e il primo piano. Invece lui c'ha un piano in più. Cioè guardandola io già mi sgomento per ovvi motivi, no? Che io mi faccio prendere subito dal panico, però magari guardandola tu riesci a trovare un modo. Capito Claudio? Devi vedere tu quello. Non ho fatto le scuole basse, già ho fatto le scuole alte. Capito? Anche io mi dà dei titoli e va a destra elementare. Io i titoli ce li ho per studiare bene la situazione. Non è la prima volta che facciamo cose del genere anche a lavoro. Me le studio io appunto. Quindi lì ho capito io, tu vuoi superare perché sono praticamente 369. Facendo l'anto qua, facendo i corvi, le balle varie, diamoli 369, quindi sono tre piani, 9 metri, che poi non sono 9 metri, ma è molto meno. Se io mi staffo a metà per metà, tu stai pur certo che io il telescopico lo tiro su e glielo faccio superare il tetto. Tranquillo che non ci sono dubbi. Peccato che non si possa accedere alla tettura, al tetto. Non si possa accedere. o si può accedere, però bisogna passare in casa d'altri. Ma Natalia, non c'è importa niente, non essere sul tetto. Poi si rischia di fare danno, di bucare, come è successo a qualcuno, ti ricordi, scende l'acqua nella tettoia, lasciamo perdere queste cose. Noi ci staffiamo eternamente a facciata, ok? Senza disturbare nessuno, vediamo un punto dove si può staffare, si staffa, io porto il trappo, ci mettono quelle staffe a tassello, si mette una appena appena di chimico dentro, me lo rimandi al vero bello bloccato, e ti vuoi vedere che ti tirato l'antenna io, ma la gana ti tirato l'antenna, c'ero pieno anch'io della Burt con la pistola, ho comprato tutto nuovo perché l'avevo comprato per fare il lavoro della direttiva, e poi l'ho tornato a comprare per fare il lavoro dell'altra, quindi non c'è problema, c'ho tutto io, c'ho il trappano a percussione della Burt che l'appoggio in chivi dentro a rugomodo di chi c'ha di vicino. Seria, io ci lasciamo un po' di buona volontà, come dice il saggio, fatti non parole, ci vogliono fatti non parole, fa vedere se sono buoni tutti, bisogna fare le cose. Domanda. Per me sono più che sufficienti, capito? Perché a me mi interessa che esca a metà della punta dell'antenna, dico un'antenna tipo quella che c'ha Marco, ok? Quanti radiali c'ha? Due? Allora dalla parte del muro il radiale non si mette, si mettono i due che escono nella strada, si fa uscire un metro la punta dell'antenna e tu sei a cavallo, non a cavallo, con due cavalli sì, sei a posto, capito? Perché quel lavoro lì, se ben ti ricordi, l'abbiamo fatto anche a Daniele. A Daniele addirittura abbiamo fatto un casino perché non si poteva salire sul tetto, fatta la staffa nella ringhiera del poggiolo, messa l'antenna a 30 gradi, fatta uscita di fianco e i radiali attaccati, quelli che praticamente lato strada e non quelli che toccavano la mantovana, capito? Non ha mai avuto nessun problema, arrivava anche a Palmondo la Via d'Italia, quindi, e non era sul tetto, era più o meno come questo lavoro qua, più o meno, capito? Dimmi Marco, domanda? Sì, volevo dire, vabbè, lì dentro è un piccolo, no? Ma si può piazzare questo palo in facciata, dico legalmente? Qualcuno può fare storie? Non penso, non per questo dovrei sapere Natalino, ma non penso, visto che lì tutti in facciata c'hanno il condizionatore, c'hanno anche antenne TV, a quanto so io, il centro storico è così purtroppo. Ecco, sì, poi lì è un vicolo, non è verso strada, capito? Ah, cosa ti vorrò dire? Anche che uno ha visto l'antenna così, no, un'antenna campata in aria, ha detto che gli stava disturbando la DSL, ma quando mai? Mi accorgo, per carità, cosa si deve sentire? Vabbè, ma tu non ti preoccupare, Natalia, noi facciamo le cose fatte bene, già così sei a cavallo, sei a cavallo, parecchio, perché sei a livello di Mario Vivente Graziano, l'antenna esterna, sei 9,5, lui è 9,10, mi pare 9,8, quindi due esattivamente, arrivi bene, però dobbiamo far sì che arrivi anche ad Alghero, bene a Porto Torres, a tutte le parti, e con quel lavoro lì l'antenna funziona bene. Poi c'è anche l'accordatore, nel caso ci sia qualche lineatina di stazionarie, perché l'antenna magari è troppo vicina al muro, la correggi con l'accordatore. Allora ti posso dire che quel lavoro va benissimo, perché io l'avevo fatto nel lato interno di via Pascoli prima di montare la mantova sul tetto, l'ho tenuta 6-7 mesi così, perché stavo trasloccando, c'erano i muratori, non avevo tempo di poter mettere l'antenna, l'avevo messa lì e mi sentivano da tutte le parti. Quindi. Va bene, adesso è pronto, però vi lascio e vado a mangiare, dai. Ci aggiorniamo domani ragazzi, ok? Marco, mi raccomando, puntuale, perché Gianni già lo sai che è puntuale, adesso che mezza sotto casa tua, prendi a te a Natalino e mi aspettate il fornitore di vero e proprio Todes, io prendo a Valerio e scendo, ok? Ok, Joe. Poi Eugenio già sale direttamente lì allo Speed Day e ci vediamo lì con gli altri anche. Dai, un fine serata, buon tutto, a domani signori, vado a cenare. A meno che Marco non vuole entrare dopo, io lascio tutto acceso, ciao. No, non te ne andare, aspetta. Però Natalino, intanto innesca poco poco. Cosa abbiamo cambiato di diverso? Va bene, a parte l'accordatore. Gli spinotti sono fatti bene, sì, tutto. No, forse devi metterlo a metà, ma che viene, ho già capito, dai. Boh, è un po' così. Vabbè, ci vuole tenere su. Ah, ecco cosa ti volevo dire, Claudio. Che secondo Natalino l'antenna anche mezz'onda, la Energy, no, quella che ho simile alla mia, no? Anche se pesa solo 2 kg, è troppo pesante secondo lui, vuole la canna da pesca. Cosa ne pensi tu? Ma no, perché tu pensi la canna da pesca sia una più leggera? La Energy è un tubo, non è pesante Natalino. È leggerissima come antenna, non ti preoccupare. Lo vediamo, decidi tu cosa mette. A me interessa vedere il lavoro e fare il lavoro. Poi l'antenna se vuoi mettere una canna da pesca, si mette una canna da pesca, però io sono propenso a mettere le antenne comprate, fate come i cristiani, capite? Mi sta chiamando mia moglie, se no mi fate bisticciare. Ne parliamo domani a seduti a tavola, dai, ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao. Prova Natalia a metterlo a metà il macchinino, vediamo come va, dai. Purtroppo non si trova mai la perfezione. Sì, già ti ho sentito anche prima dell'accordatore. Sono un'infinità di fattori non ponderabili in quelle condizioni, dai. Messa così, clienti del REF, eccetera. Cioè, poi ho detto una mega stronzata, Mattia. Avevo detto che non avevo mangiato ancora oggi. Se abbiamo mangiato con mamma fuori e mia zia, bobo, allucinante. Quindi a pranzare abbiamo già pranzato. Al limite mi mangio un po' di roba dolce adesso, un po' di frutta, ne posso mangiare, capito? Così a stanotte poi a cenare ci veniamo tardi, capito? Bene. Ah, Natali, quasi chiudo, dai, sono un po' stanco. E tanto poi sono tutta la sera fuori, dai. Mi rilasso, mi stendo, mi guardo la televisione e ci intendiamo domani, dai, ok? Poi se vogliamo entrare prima delle 7:30 possiamo anche entrare, mi capito? Eia, saldando, vedi roba. Oh, ho notato una cosa però, mi Natali. Metti che Claudio sia 9:30 a questo smitter, tu sei solo un gradino più in basso, mi. Che segnale alto, come se fossi, se Claudio è 9:30 tu sei 9:25. Perché l'ho notato adesso, mi. È un bel alto il segnale, non è 9:15, non è neanche 9:20. Capito, è bello alto, caspita. Ebbè, come se tu fossi in barra mobile in un vicolo, mi. Come che tu fossi nel vicolo in barra mobile, è ovvio. Anch'io quando sono in barra mobile, Valeria non lo sento, Eugenio non lo sento, è ovvio. Comunque chissà perché a me ispira di più la canna in alluminio, l'antenna in alluminio. Non lo so, più che altro la durata delle canne da pesca non mi ispira molto, cioè questo cavo attaccato alla canna da pesca o all'interno anche della canna da pesca, non lo so. Cioè io per me, a me non piace nemmeno l'antenna in vetroresina, non mi piace quella americana, la... come si chiama, la 2000, porca miseria, vabbè, c'è quell'antenna americana che dicono che sia resistentissima in fibra di vetro, eppure ho sentito di casi dove si è rotta, capito, vabbè, non mi viene il nome, antenna americana, resistentissima, bellissima, e anche quella si sfascia, preferisco l'alluminio, scelta mia. mia, è una scelta personale, poi uno può, anche di fibre di vetro non è Biasi. La Game Master è buona come concetto, però preferisco l'alluminio, non lo so perché. Anche la Grand Play che ho avuto io era in alluminio, era già troppo che avesse i radiali in fibra di vetro, aveva, capito? Che poi ti punge le mani quando è vecchia, no? Però lo stilo era in alluminio. Le scelte personali sono, dai. Ok, vabbè Natali, dai, ti saluto, vado a guardarmi Striscia la notizia e poi vediamo se c'è qualche film e togo da guardare, ok? Guarda, sono contento che il pacco sia arrivato oggi e ci sentiamo domani, ok? E se non ci sentiamo alla radio ci vediamo a quell'ora. Buonanotte, buon tutto, saluta la signora e ci sentiamo domani, ok? Ciao Natali, ciao ciao. Ah, pensavo una cosa anche Natali. Tu con l'accordatore elimini le stazionarie che vanno ai finali, pensavo magari che all'ingresso dell'accordatore ci possano essere un po' di stazionarie, chi lo sa, cioè da baracchino a accordatore potrebbero esserci un po' di stazionarie, non lo so come si regola anche quello. Certo, ci sono troppi se e troppi ma, per esempio a me fischiava a Gianni il DM1000, nota bene, il DM1000 a Gianni in macchina non gli fischiava, a me non c'era modo, a me fischiava sempre, non c'era modo di non farlo fischiare, vedi, sono delle incognite che non sai cosa sono, ecco perché non so perché innesca un po' il microfono. Ci sono troppe cose da vagliare, che ne so, non lo so, Natali. Comunque il segnale è ottimo, quello sì, quello è ottimo. Ok, dai, buonanotte, ci sentiamo, ciao ciao ciao. Ehi, ripeto che la voce è, la tua voce, come sentirti dal vero, è impressionante. Qual era? Ma il piccolino micro? Ah, quello che si imbraccia, bello, bello. Bellino, bel rumore anche, bel rumore di Star Trek. Io naturalmente, te l'ho detto, non ho avuto mai la scintilla per andare al poligono. Ho controllato sempre il coso, boh, non lo so, che me lo fa fare. Te l'ho detto, per quello, vedi, io ho buttato sempre soldi, però per il poligono sono stato tirchio, lo sai. Al massimo mi sono preso la carabina a funghetti, però di più non mi sono mai spinto, ecco. E vabbè, sono scelte, dai. E più che altro la piccola mi è piaciuta, la piccola, quella col percussore lanciato, quella è il top di gamma. Mi piacciono più le cose piccole, più portatili, capito? Più occupano meno spazio. Ma ci vuole l'appento, Natali, ci vuole il macchinario per pressare la palla, devi comprare il borso di vuoti, la polvere, le palle, la palla da innestare sulla cartuccia. Io già lo sai che preferisco spendere di più, pigliare le cartucce pronte. Quanto costa cosa? Natali, tutti i soldi che ho buttato, figurati se mi preoccupo per un pacco di cartucce. Quanto costano per esempio le 9? 50 euro il pacco? No, aspetta Natali. Ma cioè le 9 per 21, pacco da 50 costerebbero 12 euro. Non è possibile, saranno le 22 long rifle che costano 12 euro. E quindi le 9 per 21 pagano da 50 a 12 euro. Cioè come quelle a salve costano. Caspita, è pochissimo. Non ho io fiocchi, ho fiocchi o niente. A me piacciono i fiocchi. Anche se sono meno potenti, come dicono. Fiocchi, voglio roba nazionale, non ne voglio roba estera. Cioè, se dovessi prendere, è un'ipotesi, prendere i fiocchi. Ma vabbè. Caspita, più poco di quanto mi aspettassi, vabbè. Va bene, Natali, dai che chiudo, sono a dito, come dico io, a dito in culo, scusate il termine. Ciao Gianfranco, sia l'ascolto, scusa la mia sboccataggine. Già la conosciamo bene. Vabbè, mi piace usare espressioni colorite, diciamo. Ma tu domani ci sei? Non so dove, ma c'ho una marea di impegni, quindi a prescindere di cosa stai parlando, tanti impegni, anche adesso sto facendo roba. Ah, in pizzeria ci sei domani alle 8, no? Vabbè, no, credo che avessero esteso l'invito, dai. No, mi sarebbe impossibile a prescindere, troppo un periodo proprio a tempo pieno, anche le cose mi trovano a fare di notte. Va bene, riprendo, ciao a tutti. Ok, ciao Gianfranco, ciao a tutti gli ascoltoni, dai, vado a vedermi la TV che sono cotto dalla giornata, ciao a tutti, ciao. Naturalmente S8, chiaro e forte, ciao Marta, alla prossima e buona